fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Risto Radio Convento e sono in compagnia dello sposo Antonio e del testimone. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora ragazzi, io dovete sapere che prima di entrare ho fatto una promessa col testimone, giusto? Ah sì sì. Mi devi dare una mano a fare delle domande molto molto, come si dice, piccantine. Assolutamente. Va bene? Sei pronto Antonio? Certamente. Non è solo colpa mia, No, no, no, no. So che anche io non ho fatto nulla, va bene? No. Dai, proviamoci. Mi ripeti il nome del testimone che non si è sentito? Agustin. Agustin, perfetto, Agustin. Allora, sei pronto? La prima cosa che ti viene in mente, Agustin, dai, da fare. Ok, io sono pronto. Allora, visto che sono sia testimone che cognato, sì. Quindi parto un po' cattivo e chiedo quante... Se si può chiedere, Sì. Quante campurelle sono state fatte prima della convivenza? Allora, ti dirò che camporelle poche, penso che si contino sulle dita di una mano, dovrebbero essere due o tre. Non si può mettere tipo la musica. Tun tun tun, ah, che è triste. È una cosa che non credi, perché diciamo. Perché la camporella ha un po' lo status. La camporella ha lo status, sì, ma noi abbiamo iniziato direttamente ad andare a casa mia. Ah, quindi... ok. Molto easy, la fortuna, molto la easy. Fortuna che pochi hanno, ecco. La fortuna proprio che noi non abbiamo, diciamo. Tu ce l'hai, Agustin? Io purtroppo no. Dovevi nascere Antonio, invece sei nato Agustin. Mi dispiace. E un'altra cosa, ma da dove venite? Allora, veniamo da Parma, ma c'è un miscuglio di provenienza. Allora, io sono sardo, abito da 20 anni a Parma. Lui è argentino, la mia futura moglie è astigiana, nata ad Asti, ma vissuta in Argentina e poi ritrasferita in Italia. È un macello proprio. È un macello. Allora, vediamo proprio. Invece se voi indovinate, io sono del nord o sono del sud? Ma secondo me sei del sud. Che zona, dai? Allora, io direi un Basilicata, Puglia, ma. Me ne esco. No, no, ragazzi, faccio laziale. Me ne esco ancora di più. Oddio, dove sei? No, oggi stai fregando. Io sono la classica terrona meridionale. Sicilia, no. Sicilia. Calabria. Napoli, proprio cuore mio, proprio Napoli. Cioè, sei pronta a festeggiare lo scudetto? Quasi, speriamo, okay, dai ragazzi. Ce lo auguriamo noi, tanto ormai. Voi che squadra ti fate? Non si dice? Dove ti fa Juventus? No, è Cagliari. E la capolista se ne va. È Cagliari. Io Cagliari addirittura, perché sono sardo. No, non va bene. Io purtroppo ho sangue argentino e tipo River Plate. E io Boca Junior. Quindi addirittura c'è questa... rivalità in famiglia. Devi sapere che la capolista se ne va. Ah, se n'è andata, ma complimenti. Ma proprio alla grande. Tantissimi complimenti al Napoli, campionato perfetto. Dai, ce lo meritiamo quest'anno. Dopo tanto sì. Dai, non si può nulla, da Juventino dopo 9 scudetti sono felice che il Napoli vinca finalmente lo scudetto. Nulla da dire. Era anche ora che la capolista scendeva un po' dalla lista. Assolutamente. No? Come la pensi? Non la pensi come me? Ma io sono assolutamente d'accordo. Io anch'io sono d'accordo. Io sono per le pari opportunità. Quindi come devono vincere no, il nord, io sono per chi lo merita. Io sono per chi lo merita. E il Napoli quest'anno l'ha meritato. Giusto. Mi fa piacere. Allora, qualche altra domanda. Ritorniamo a noi. Abbiamo aperto l'argomento. Sì. Richiudiamolo e facciamo qualche altra domanda un po' più accesa. Dai, da luci rosse. Allora, io ho avuto un periodo che hanno vissuto per diversi inconvenienti in camera mia. Nel mio letto. Quindi io voglio sapere. Sei curioso? Io voglio sapere quante volte c'è stato un rapporto sessuale nel mio letto. Ma tu sei proprio sicuro di volerlo sapere? Io lo voglio sapere. Va a finire che dopo stasera non ci dormi più nel tuo dopo letto. Dopo vi dico il perché lo voglio sapere. Va bene. Relativamente spesso. Anche spesso. Prima della colazione. Allora, già che non c'è un numero è una cosa preoccupante, sì, perché sì. Vuol dire che lui non porta il conto di quante volte. Diciamo che qui, allora, posso dire con profondo nel cuore che quei mesi in cui ho vissuto a casa loro nel suo letto c'era un non so che, ma ho apprezzato molto il tutto. Quel tuo letto dà quella forte attrazione? C'è da dire quello. A quanto pare sì. Tu l'hai testato il tuo letto? Sì, io sì, però dopo che loro sono passati, quindi mia sorella e lui sono passati, Io ho fatto il cambio diretto. Mi sa che hai fatto un'ottima idea. Io ho fatto il cambio non sapendo, diciamo, le volte che ci potrebbe essere stato un rapporto. Io nel dubbio ho detto un per avere un letto pulito fatto un hai completo. Fatto cambiare tutto. Ho fatto un change completo. Beh, proprio sta. Anch'io avrei fatto lo stesso. Sì, però, sì. Beneficio del dubbio. Anche perché non sai, sono passati zetto sorella. Cioè, meglio evitare. Sì. Vabbè, però tu. Allora, lui ha detto che provava questa forte sensazione strana di godure a non. Go, va bene, parliamo così. Sì, sì. Tu più o meno hai provato la stessa sensazione nel tuo letto nuovo? Perché qui si parla nuovo, nel tuo letto da nuove sensazioni. Ho avuto una sfortuna che cigolava. No. Quindi ci ho preso malissimo. Una grande sfortuna. Però devo dire malissimo. Con te cigolava? No, devo dire una cosa. Era quando l'ho cambiato, quello nuovo. Perché cigolava. Non dovevi cambiarlo. Hai capito? Io ho ospitato mio cognato a casa mia sul divano. Mi auguro tranquillamente proprio. Che anche lui abbia fatto lo stesso. Che lui il mio divano l'abbia utilizzato nel mail. Te l'ha messo a disposizione? Modo. Come tu hai messo a disposizione il tuo letto? Guarda, io purtroppo sto zitto perché il divano non l'ho toccato, ma il suo letto sì. Questo si scoprono gli altri. Questo fino ad oggi non lo sapeva. Questa è una sorpresa, ma non mi dispiace perché comunque come io ho utilizzato il suo letto, lui ha ricambiato. Certo. Si può dire che diciamo che eravamo prima della relazione con mia sorella eravamo conoscenti, quasi amici, cioè un rapporto simpatico. Poi è avvenuta la relazione con mia sorella, quindi il rapporto si è un po', diciamo, più rafforzato. Diciamo che ci conosciamo da quando io ero un diciottenne, lui era uno schizzo, un pischello piccolino, sì. Quindi sì, avete cresciuto insieme, tutto? Ci conosciamo dalla vita. Sì, quindi. Sì, praticamente sì. Ah, beh, allora sì. Ci sa che siete anche compagni di letto, diciamo. Sì, sì. Che diciamo, potete fare queste cose, scambi di letto. Sì, diciamo che non c'è nulla di male, allora. Sappiamo gestirci. Sì, non vi scandalizzate. No, è come un fratello, un fratello maggiore alla fine. Va bene, dai. Allora, ragazzi, è stato un piacere conoscervi. Per noi. Io vi lascio proseguire la serata al meglio, mi raccomando, perché è l'ultima serata, Dacci tutto te stesso, perché poi non ti torna più indietro. No, ma io ho domande, ma dopo l'intervista già offrono da bere. E devi chiedere al bar. No, sto scherzando. Adesso ci spostiamo qua di fronte, che c'è il karaoke. Sì, dateci tutti voi stessi, ragazzi, a cantare. Se non c'è troppa fila, facciamo il karaoke, altrimenti andremo a bere. Non si può cantare qui. No, se vuoi puoi fare una cosa a cappella, vai. Ah, una cosa a cappella non me la sento. Non te la senti? Se vuoi posso cantarvi un pezzo alla, non so se ti conoscono, Paolo Bitta, grande artista che cantava i Pooh. Provaci, vai. Ok, vai. Dammi solo almeno un soffio di fiato, un attimo ancora. Va bene, ragazzi, dopo questa vi lascio, Vi lascio andare nell'area karaoke. Ci ringraziamo, auguriamo una buona serata a tutti. Grazie anche a voi, ragazzi. Grazie mille, ragazzi. Buona serata e ancora tanti auguri allo sposo. Auguri allo sposo, Ciao, auguri, a tutti. Ciao.